La notizia principale che riguarda il centenario di San Pio X è già stata diffusa da alcuni giorni, è il cambiamento della data della celebrazione ufficiale di agosto, non il 20, che sarebbe anche la data liturgica e la data esatta della morte di Papa Pio X nel 1914, quindi non il 20 ma il 23 agosto, sarà di sabato e ci sarà il segretario di Stato Monsignor Pietro Parolin per rappresentare anche Papa Francesco, un appuntamento dunque che coinvolgerà tutta la diocesi. La presenza di Monsignor Parolin onora la Chiesa diocesana di Treviso e tutte le istituzioni ecclesiali e civili nel ricordo del concittadino, del conterraneo Giuseppe Sarto. Ovviamente sacerdoti, fedeli di tutta la diocesi di Treviso, corali, aggregazioni ecclesiali sono invitati a prendere parte a questo evento che è il principale di tutto l'anno centenario. E ricordiamo che per quell'occasione proprio Papa Francesco ha concesso l'indulgenza plenaria in occasione del centenario. Ci sarà la benedizione papale con annessa indulgenza plenaria da lucrarsi alle condizioni consuete. Chi non potrà essere presente alla cerimonia del 23 agosto potrà seguire alla TV o alla radio, beneficiandone allo stesso modo. Tutti i fedeli che poi sono impediti dalla vecchiaia o dalla malattia possono lucrare l'indulgenza anche in occasione di tutto l'anno centenario, con le tre condizioni consuete: davanti a un'immagine di San Pio X, unendosi spiritualmente a un pellegrinaggio giubilare, offrendo a Dio sofferenze e preghiere. La visita alle chiese di Riese, Tombolo, Salzano, Cattedrale di Treviso con il pellegrinaggio e partecipazione devota a una funzione o un tempo congruo in preghiera, concludendo con un Padre Nostro, un credo, una preghiera alla Madonna e a San Pio X. Queste sono le condizioni, appunto, ovviamente le consuete sono confessione, comunione sacramentale e una preghiera per il Papa in occasione dell'anno centenario e nei luoghi del centenario: Riese, Tombolo, Salzano e la Chiesa Cattedrale di Treviso. Ci sono i pellegrinaggi intervicariali che proseguono nelle domeniche di Quaresima. Domenica 30 marzo per i vicariati di Treviso, Paese, Spreziano, Monastier e San Donà. Qui ci sarà, dopo la predicazione di Monsignor Stefano Chioatto, la benedizione e il bacio della reliquia, la visita al seminario vescovile, dove c'è la cappella del Santo Curato d'Ars con la biblioteca dedicata a San Pio X. Per quanto riguarda l'anno centenario, ci sono altre occasioni importanti. Farà il suo pellegrinaggio il 3 giugno il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Giuseppe Sarto è stato appunto sulla cattedra di San Marco prima di diventare Papa. Poi anche il cardinale Beniamino Stella sarà presente lunedì 29 settembre, è il prefetto della Congregazione per il Clero. E poi il viaggio si fa anche al contrario, cioè dal Veneto si va a Roma. Il vescovo di Treviso guiderà il pellegrinaggio diocesano alla tomba di San Pio X, incontrando anche Papa Francesco nell'udienza generale in piazza San Pietro mercoledì 10 di settembre. Per questo sono ancora aperte le iscrizioni presso gli uffici della diocesi di Treviso. Tra le varie iniziative collaterali e culturali ricordiamo anche il concorso di pittura promosso dalla comunità di Salzano, un dipinto ispirato a San Pio X, oppure un'opera su un tema libero fuori concorso. La consegna dei lavori entro il 4 maggio. L'opera vincitrice di questo concorso sarà collocata nella chiesa parrocchiale di Salzano. Il ricavato della vendita delle opere sarà destinato a un'iniziativa di solidarietà curata dalla Caritas locale. Il regolamento di questo concorso di pittura è disponibile presso il Museo San Pio X di Salzano, il Comune di Salzano e sui rispettivi siti internet. Ci sono anche gli appuntamenti dei sabati, appunto, che precedono i pellegrinaggi vicariali con la musica. Sabato 29 nella Cattedrale di Treviso, la riforma della musica sacra di Papa Pio X nell'ambiente musicale italiano dell'epoca, all'organo Giovanni Feltrin con l'orchestra regionale Filarmonia Veneta diretta da Marco Titotto. Sabato 5 aprile al Duomo di Castelfranco Veneto lo Stabat Mater per soli, coro e pianoforte di Licinio Refice. Elisabetta Battaglia soprano, Lian Feng tenore, il coro filarmonico Veneto al pianoforte Giovanni Valle, direttore Valentino Miserax Grau. E poi segnaliamo per il 24 di ottobre, ma saremo già verso la fine delle celebrazioni del centenario, il Tempio di San Nicolò a Treviso ospiterà l'oratorio per soli, coro e orchestra di Lorenzo Perosi, che ha lavorato e collaborato strettamente con Papa Pio X, la risurrezione di Cristo. Ma avremo tempo di ricordarlo. Ricordiamo il sito ufficiale www.centenariopiox.it.